è troppo, non si capisce quasi. Poi, hai visto faccio bassi bassite sui entrati in volo, non passava perché si qui so, allora un poco di legge, non avevo un poco di legge, allora finivo di più e su un poco più pensi che mangia niente di volo, capito? Carte bassite, non ti immaginate. Tutto, buon proseguimento di giornata, ciao. Hola Gianni. Oh, avanti Peppe. E me, tutto bene? Sto bene, niente lordi, anche se, dove sei? Qua, dopo il quadrato, io sto rientrando a casa. Io mi sa che stava piovendo, c'era freddo, tu, certo, non ci tratteniamo manco lui, io ce l'ho ancora qui di mia moglie, no? Niente di più. E tu sei entrato, sei arrivato, sei andato, eh? Ah no, sono qua a Coso, diciamo a... sto scendendo a casa per... ero da Antonello per farmi controllare quella roba, il baracchino, il Galas. Ci sono un paio di lette un po' bruciate, non lo so, adesso deve vedere un po', capito? Io l'ho lasciato e... ho giurito questo che uso in macchina. Ma te l'avevo già aggiustato, Giuseppe, non l'avevo aggiustato già. No, l'ha montato, gli ha cambiato il coso, quello dove per i numeri. C'era qualche cosa di mettere il bruciato. Lecino, dove sta? Abbia in gabbia le ossine. Ma succede male? Negativo, c'è qualcuno che ti chiama, mi è sembrato la matrice pazza, cambio! Attenzione, Daniele, matrice pazza, chi sei? Qua siamo partenza da Ottrado, in Gabbato, vicino alle vostre coordinate. Attenzione, Daniele. Sì, alle ossine, qua sono. Via Grazia Letta. E Giuseppe, io sono qua a tavola ancora. a casa, dai, vi saluto tutti e vado a mandicare più pappau. E allora dai, buona carichetta, ce la ascoltiamo stasera se coincide, dai. Avanti, motrice, quella bassa da dai. Ciao Massimiliano, Bulldozer, buongiorno. Di buon domenica. E lui c'è anche il doncino, Massimiliano, c'è anche il doncino. E sono appena uscito di... Ho comprato, che poi non aveva la mia socia, la misura mi l'ha vinto, l'ha vinto. Farò un giro di positivo, dai, salutando anche il Leoncino, perché non ho fatto ascolto, quindi non so che ci sia, dai, tutto lo giro. Scappa, ciao Massimiliano, buongiorno. Buongiorno, speranza che mi senti e non so se mi ascolti. Forza Chiaccio, 9.25, ambiche positivi, radio Super 5, cambia. Dicevo grazie, motrice passa per il margine, grazie con due fatte di manacchino. Cava, cava, lo sappiamo, dai, che spacca tutto quello. Leggi, dammi un controllino a me, fai questa cortesia, cava. 9.10, ambiche positivi. Oh Massimiliano, lui ha le bucce di ciocca, sono pure con la mini e tutti qua stanno abbassati. Sì, cavallo, vabbè io c'ho un po' di splatteri che c'è qua, il mio vicino di casa che sta andando con 2 km, quindi fate il conto, non c'ho il segnale, dai. Ma già va bene così, comunque riesco a ascoltarvi e tutto lo giro. Lei con me ne va così, oh Daniele, lo devo aumentare, passare, va bene, cambi. No, va bene, perfetto, perfetto. Va bene che fa bene Massimiliano. No, stamattina non mi sono alzato, mi sono proprio, mi è uscito di testa, ma sono ricordato adesso che stavo uscendo. Ah, hai cedito, no. Adesso vado a fare l'uomo con la mia donna, non c'è. Poi sono dimenticato perché ho fatto un affare e mi ho comprato il volante per Xbox, e me lo giù bene, capito? E va tutto bene, dai, va tutto bene. Cavagliava, guarda che c'è anche un'altra persona interessata per questo coso, e fammi sapere il prima possibile, mio Daniele. Massimiliano, una cosa, dai, ti arriva prima, ti arriva prima. Perché cazzo, io adesso non riesco prima, c'era un primo dove riuscivo a una qualcosa, non si inabitava, ma si inabitava di tutto, capito? No, no, non ti sto mettendo a fretta, ma mi hanno contattato anche stamattina, capito? Solo per quello. Preferisco più darlo a te o a un'altra persona, lì, tutto lì. Va bene, dai, tutto lo giro, anche io vi lascio col buon pranzo, buona carichetta e dopo pranzo attacchiamo un po' che dobbiamo registrare un baracchino che c'è di gioiello. E niente, là. Vi auguro buon pranzo, buona carica, io chiudo le trasmissioni e ce la riascoltiamo le migliori, dai, il Bulldozer vi ha salutato, cambio. Cava cava Massimiliano, fate buona domenica, buon Rodrigo, se coincide più tardi, io adesso mi fermo da Bricomen, prendo il bidone e sto salendo, dai, buon proseguo di giornata Massimiliano, alle migliori un abbraccio e una stretta di mano, ciao. Ciao, ciao, ciao anche a te, Leoncino. Cos'è? Penso di sì. Leoncino. Leoncino, che fine hai fatto, Leoncino? Alla grande. va bene, allora 5 watt di baracchino normalmente, senza aiuti e niente, sta uscendo, abbiamo fatto un piccolo una piccola modifichina, però sta uscendo tranquillo, ok, sono contento del lavoro, cambio. È positivo, dai. Anch'io sto uscendo 2 watt, dai, 2 watt di portata bianca. Va bene, Gigino Vulcano, tutto a posto, sì. È positivo, dai, positivo il caparroggio, dai. Ma sta girando bene questa cosa, poi io... Beh, forse sì. Sì, sta girando bene, ma arrivi 9-10 a picchi positivi, radio super 5, cambio. Oh, guarda adesso... Adesso mi ha aumentato i watt su del baracchino, cambio. 9-20 a picchi positivi. Positivo, dai. Come è meglio la radio? Così o in questo passaggio così? Ma diciamo meglio questo passaggio, questo, molto meglio. Io ti ascolto così, poi mi ha sentito un altro, vedi come ti sente, capito, in giro. Guarda a vedere, guarda così se ha aumentato qualcosa, cambio. 9, quasi 9.30, sì, qua, dai. Rogero. Questo cosa aumenta la radio, cambio? Sì, la radio aumenta un bel, aumenta parecchio, Gigi. E quelle cose dell'eco un po' fortino, sì, però se la passi poco a poco, sì, sei super ok. La sto solamente controllando, questo deve essere la radio, guarda un po'. Cos'è la radio questo? Se giro così aumenta di più la radio, giusto? K. Positivo è K Rogero. Ma ecco, da così a così a cambio. Che cambia, sì, cambia alla grande cambia proprio forte oggi. È positivo, dai, positivo è caparrogero. Cazzo Gigi, abbassa quell'elenco, abbassa che rimbomba un parecchio, rimbomba un bel, rimbomba, Cavolo! Sì, a chi ancora? Capa, rimbomba un parecchio, quando dici cambio se ne va sino alla fine, capito? Però è sempre bello forte. C'è un buon microfono su mio, a me di una Zuzzini. Poi devo sentire a Massimiliano che devo far sentire questo baracchino, dai. Ehi, ma che cosa è, Gigi? Che marca è? Una da 48 di famiglia di nipote, dai, che me l'ha dato a provare, l'ha ritirato e me l'ha dato. Ehi, capa, no, è buono, ottimo. Ultima Gigi, complimenti a tuo nipote, dici che ha una buonissima radio. Ho cambiato microfono, vedi un po', se questo è meglio, cambio. Gamba, questa rimane un po' più, come posso dire, rimane un po' più chiusa, dai. Più la modulazione è grossa, dai, più grossolano la fa questo, così è cambio. Cappa, sì, rimane un po' più grossa la voce di con questo microfono. L'altro faceva proprio bene, era bella voce. Positivo, dai, già. aver preso io l'Intercred M340S, qualcosa ci può fare? E io, detto così a occhio, non te lo so dire se quale, se quel modello che... Ma il canale ce l'ha quello lì? Il canale, sì, c'ha il tattino anche per andare su, hai capito? È già comprato così, ma nuovo o usato l'hai preso? Usato, usato, capito, usato. Ma hanno dato per usato, capito? E allora... Allora l'hanno già modificato quello lì, dai. È già modificato. Sì, vabbè, è omologato, è quello che mi serviva per la concessione. Dunque, però volevo chiederti se... era fattibile, se si poteva fare qualcosa, capito? Di forse te lo faccio vedere, scendo e qualche giorno te lo faccio vedere e te lo faccio provare, dai. È positivo, dai, ma sicuramente ci ha fatto così perché nasce senza i canali sopra, capito? E vuol dire che ci ha fatto, capito? Dipende chi te l'ha dato, secondo chi te l'ha dato, io l'avevo già portato a fare quello lì, secondo chi te l'ha dato. No, questo a me me l'ha regalato, mi ha fatto un regalo Giulio Dollaro, hai capito? E dunque mi ha detto, tieni, ti faccio un regalo e ti do questo barattino qua, tanto. Ho visto che non ne hai e ti utilizzi questo qua. Ok, ho detto vabbè, grazie. È positivo, ma però sicuramente l'ha già fatto il lavoretto, capito? Perché se è omologato nascono, sempre se c'è i canali sopra, come stai dicendo tu, nascono senza i canali sopra, capito? Quelli si fanno in un secondo tempo, capito? E allora è stato già fatto, dai. E capa, vabbè, non ci sono problemi, dai. Il discorso è questo, che se la cosa non la vedi non puoi giudicare, dai, è quello, te lo fa vedere, te lo portare a vedertelo, dai. Poi mi dici sì, si può fare, si può mettere questo, si può mettere, si spende questo e si spende quell'altro. Poi, una volta che lo vedi, mi dirai tutto quanto, tanto in questa settimana dovrei scendere giù da quelle parti e quando ci sei a casa tua te lo faccio vedere, scendo, entro 5 minuti te lo faccio vedere. Positivo, dai. Positivo è Kappa Rogero. No, va bene, dai, sono contento che questo gira bene, cambio. Me l'ha omologato anche questo una volta. Guarda, sei andato, io Gigi. Quello di sopra è un'antenna, però non so se va bene, se va, boh, non ho capito, ancora non ho capito bene com'è. Positivo lei, positivo è caparrogero, questo è il baracchino. Bella, bella, buono, si sente bene, sì. Va malissimo, va malissimo. Chi è che ha detto che va malissimo, chi è? Vittorio Giove, sono 10 metri, ti sento in tutta la banda, quindi armoniche spurie a go go, ti senti più in 10 metri che in 11 metri, ciao, a risentirci. Ciao Vittorio, lo sappiamo dai, che questo io lo provo solo, a volte la domenica a quest'ora e non lo attacco mai qua, capito? Lo provo solo per fargli scaldare solo in queste cose così, capito? Ma ti sento dappertutto, banda telegrafia, banda SSTV, banda digitale, banda fonia, dappertutto, da 28 fino a 29 MHz sei dappertutto, a intervalli regolari di 25 kHz, quindi c'hai armoniche a chilometri. Ciao, buona domenica, risentici. Vittorio Giove, mi senti a me? Sì, ti sento. E com'è la mia? Guarda, vedi un po' come sto uscendo io qua con questo piccolino, guarda che 5 watt di potenza, basta, senza nulla, capito? 5 watt. Non potresti averne anche 5.000, io sentivo solo questo effetto, ecco, caparoge qui e là, in tutta la banda, e per quello sono venuto a avvisare come è corretto fare. Ciao, ci sentiamo, buona giornata a tutti, ciao ciao. Ma mi senti dal citofono, vedo? No, sentivo solo, sono in 10 metri, sentivo solo questo segnale con l'eco dappertutto, che disturba parecchio. Ciao. Ma Nico, non mi senti dal citofono? Ma Luca, buonasera. Non mi senti dal citofono, ciao a tutti. Buona domenica. Vabbè. Luca. Ciao Gigino. Luca. Via. Giuseppe, sono, dai, dimmi una cosa, come sta uscendo questo piccolo paracchino, l'ultimo acquisto che ho fatto, dai, so. Sotto bene, perfetto, radio 5, segnale quasi più 30, ciao Luigi. Ciao Luca, buongiorno, ben ascoltato. Positivo anche a te, buona domenica a tutti, capa. Positivo, dai, stavo provando il tuo paracchino, però... Forse c'ha problemi che da fastidio, dai. Sentivo Vittorio che si lamentava, non lo so. Non lo usaccio. È positivo, là. Non penso così, no, e prima poteva essere così, credo di no. Non so, non... Non lo usaccio, e come sta andando bene, sì. Sì, tu vai bene, dai, la cosa è tutta bella positiva. No, Giuseppe, anche non lo c'è il contratto. No, diciamo che ho dato quello là, quella stazione base a mio compare, e con quella poi un'altra persona mi ha fatto un regalo, ho capito, e dunque ce l'abbiamo piazzato, dai, l'abbiamo portato... a fare le piccole questioni, è normale, 5 watt di uscita senza aiuti e niente, e basta, l'ho piazzato, l'ho provato a provare qua a casa, capito? Questo è quello che uso in macchina, hai capito Luca? No, va benissimo, ascolto bene, auguria. Non inneschi, non... sì, vai benissimo, dai, perfetto. E capa, questo è l'Intec 340S, hai capito? Interessa, sto vedendo la 300, sono voi, non mi sta bene, è nuovo, funziona bene, poi vedi tu. Che cosa non ho capito Luca? La 300 sto vendendo, quando non le faccio niente. Ah, mi microfono. Il microfono è introvabile. E quanto ne vuoi? Siamo d'accordo, c'è il partito, non lo chiami, poi lo utilizziamo io. E vabbè, già ci troviamo, Luca, noi già ci troviamo. Ci troviamo giù, capito? Solito posto per quella questione delle domande, hai capito? Ah, no, esatto, va bene. Hai capito, Luca? Sì, no, no, Oh, Lugarie. Ah. Ma va bene secondo te questo apparato, va male secondo te, dai, un parere tuo, Gambio. Va bene, va benissimo, per me va bene. Ma i due infatti, è a zero, tutto a zero di infatti, è due. Ma te la cos'è la picchia di nove? Ce l'ho a due infatti, capisci? Sono chiusi i infatti qua, capito? Sono chiusi, cambio. Quello che gli avevano regalato i figli l'8001 poi noi figli, ti ricordi? Allora, siamo ancora tu, mica aveva problemi, capito? Siamo preso tutto lui, amplificatore, antenna, tutto, tutto. Poi c'erano i figli, non gli hanno preso niente. Solo che è rimasta questa cosa qua, adesso bisogna vedere se la mamma vuole. O se lo tengo per ricordo, ma non so, c'è un'antenna anche sul tetto. Dimmi il nome, come si chiama, non mi viene più il nome, che non si parla fatta la cosa con me, c'era un uomo come Baracchino, dimmi il nome. Giacomino. Giacomino, io di lui sto parlando, Giacomino, che era morto, poveraccio, e c'era rimasto, ti ricordi che te l'avevo detto, mi avevo detto pure tu, e poi invece sono andato a chiedergli, invece mi hanno detto che era morto da poco il padre, normalmente avete detto che non si viene più di nulla. Mandano un messaggio, aspetta. Poi più tardi lo chiamo lui, adesso non fa mai, sta riposando, boh. Invece di essere Luca, ciao, sono Giovanni da Porto Maggiore, per dire, no? Sono andato per la Ursi e tutte le ballacche. Se uno è attento riesce, se è attento, se è stato attento, dunque tante volte ho fregato, quante volte. Come quando gioco a dama, che sono un asino. A dama sono un asino umido, lo sai che a volte l'ho fatto vincere. Sì, ma dico, se quante volte ti ho fregato, non è un'idea tu. E allora che quando eri da Fusaro, che ti ho riconosciuto tu, alto, sospettato che lui ovviamente mi ha già riconosciuto. No, non l'hai riconosciuto però. Chissà come te ne sei sceso dalla moto. No, ma chi, aspetta. Che è successo? Ti senti? Sì, a lui io ti conosco da piccolino, ti ho preso anche in grembo, ti ho preso. Perché ero fidanzato lì, ero fidanzato vicino a Domo 2, ti ho preso anche in grembo, ti ho preso. Mazzo, ma sei sicuro che sono io? Sì, a lui. Adesso non ti dico perché non voglio... Me l'altro giorno ho contato una parola di troppo in paese. È scattato l'inferno, è scattato. Ecco, dove c'avevo il nipote della mia echese, e dove abitava, vicino a casa, da Sassi è venuto a abitare qui, un come si chiama, lì, una parola tira l'altra, ed era, e quello lì lo prendiamo, c'aveva un anno, c'aveva roba de... guarda, che io non ci avrei scommesso niente, è brutto per così. Ok, lui, io li ho frequentato, ve abiti, è strafrequentato. Boh, non è idea, boh. Poi mi, quando sarà mi fai sapere, boh, non c'è problema. Se mi è presentato, come dici, ho quasi 40 anni, Quasi 40, E allora, già è Gairu, io lì c'ero nel 1980. Boh, non lo so, poi mi riferirai. Anche a Chopin conosci, immagino, no? Antonio, lei ha voglia. Di Antonio, te lo ricordi, a Di Antonio, è morto, a Di Antonio Fede, te lo ricordi? Antonio Fede, boh, non lo so. Ma tu conosci Mutato, allora? Sì, più di uno. Oh, non mi dire che sei il figlio di Augusto, no, per caso? Chi sono il figlio? Augusto Mutato. Un po' di cognome non mutato. E noi abbiamo anche un altro amico che mi sembra che anche è morto Augusto. Lo sai con chi lavorato Augusto? Con Mario Attori all'epoca, ci avrai tirato segno Mario, ma stiamo parlando dei quelli dei gruppi di una parte, però all'epoca ci aveva solo il tirassegno, Mario Attori, ne sento nominare mai. Non ce l'ho presente qua. Sì, va bene, comunque tranquillo. Sei tranquillo, ok. E ma che apparato stai usando, se non sono indiscreto, lui? Facciamo la quiet type, non ne ho altri baracchini, ho una 34, quel type, con la MP più 4, avanti Luigi. Oh, Luca, Maria, ci sei? Luca. Che ti sta chiamando Luigi, mi Lucarie? Sento Gigi Vulcano. Proviamo a sentare, dai, ci sentiamo dopo, semmai, devo fare roba. Che ti stava chiamando Gigi? Forse devo fare roba, dai, perché ho un computer, sto riparando, ma... e mi sono tutte e due le mani, e devo stare attento a come devo fare, è quello che sto facendo, dai, ci sentiamo dopo. Fai Luca, fai. No, magari poi sbaglio, se fanno, e poi non vedo, lo sto facendo un casino, dai. E è appunto per quello. Ma un po', dai, ci siete, fassela magari più tardi. Sì, già siamo qui, da casa io non mi muovo da nessuna parte. È frittumera, oggi, frittumera. Ma io sono sempre a furrugarlo, lui, sono sempre a furrugarlo. Davvero, a dopo, ciao già, ciao Luigi, a dopo. Cambio. Chi è? Che boia. Guarda Antonè, come sta funzionando? Stai dicendo bene. stato approvato l'altro, lì c'è casa, certo non riesco a far andare, ho capito perché. Che senso non fai la velocità per andare all'Intec? Avevo la macchina. E allora? Portate già sale, sì. Eh? Portate sale. Ma portate a volte sale, a volte no. Ma con microfono normale o con microfono amplificato lo stavi provando? Microfono normale. È strano che ti faccia un effetto del genere. Ciucuccio. Avanti, chi è? Boh, si è portato, è stato inteso. Sì, ciao Bidugia, ti sento, non ti preoccupare. KB2, Santiago 7, c'è la 25. Oia, dimmi Giuseppe. Guarda com'è adesso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ti sento bene. Mi ha controllato il stazionario a vedere, Ah, non è stazionario, non ti preoccupare. Aspetta che a vedere un po' come ci sente l'Inter. Gli aspetta il baracchino, fermo la rimodulare. Ehi, la buona anima. Cambio l'altro apparato, Antonio. Via, va bene. Beh, ti do muscolo. Ciao Antonio, vabbè. Come va, Tino? Giuseppe. Sì, come va? Ogni tanto gli amici bagni anche a me. Ti sa dritta, sì. Allora già va bene, va bene così, usalo sempre, finché ce n'è. Fare un po' di vita accanto, per carità. Vabbè, io che vado a fare un riposino, ve lo metto, tra becco. Stamattina era presto in giro, eh. Stamattina in giro a lavorare. Io. Ah, la pizza. Eia. Ma quelle con la pasta fresca? No, di quelle che vendo a 1 euro, 2 pizze, 3 prescaldate, là. Ah, già fa. Qua il CB2 mi sta chiamando, io vuole controllo Bonfonio. B2? Che vuoi fare questa? Io sento tutto malandato, dimmi Gianni. Chi c'è? Giuseppe, e poi è andato Luigi Vulcano, c'era Tino Muscolo che ha chiuso, e poi B2 che è tutto quanto messo male. Così all'equipe che mi puoi male, Antonio, se ne più io la sorria e sono parlante con gente. Ciao Gianni. Ciao Giuseppe, buonasera, mi hai sentito? Io il nome del suo fluido, ha mandato su quello con il maro che mi ha fatto tre sono di organetto con munizioni, mi ha trovato i pezzi. Gianni, aspetta un attimo Antonio, Gianni, mi piace questa modulazione di questo baracchino, cambio. Sì, sì, ma quello secondo me è un Intec. Cappa, sai cosa è? Che macchina di cosa è? Qual è? Questo è l'Intec 340S, cambio. Conosco perfettamente, un bel apparato, ce l'avevo all'epoca in barra mobile, me l'avevano prestato. Giro Pantuno me l'aveva prestato, ma boh, però c'è una radio formidabile già. Ok, Gigi, riprendi, ti abbiamo chiamato poco fa, ma eri assente, riprendi Vulcano. No, sono sceso da giù in garage, sto facendo cosa qua, oh Gianni, sto facendo cosa qua, capito? Sì, perfetto. Ok, oggi, ma senti, no, c'è qualche di quelli apparecchi a 40, diciamo, da mettere a posto, se te li do a te, non so cosa farmene, di quelli che metti a posto tu. Così tipo, se non sai che cosa cerchiamo di metterla a posto, di quelli vecchia data parli tu. È un Idi, c'è un Idi 410, hai capito, una LAN 44 che mi ha varato la paranima di Betta Verde, qualche cosa, a me non me ne va con nulla a dire questa radio, no? C'è un 44 della Midra. Ia, ia, per mettere a posto di nome, appunto il laboratorio me l'ha badato e da una parte di non mi ha fatto nulla, il 44 va bene perché ci posso fare un po' di cose sul 44. E poi c'è un corso, c'è un Intec 200 Plus, lo conosci? È positivo, positivo. Ma c'è tutto. Chi è che questo come se vuoi denisardo serrato, chi è? Aspetta, vengo subito. Sì, comunque avanti Giuseppe, no, quella è, va bene quell'Intec, ti ascolto, guarda, con una radio bellissima. Ripetitore, l'antenna ci vuole. Da. Con il 1 c'è, che il 9 è 9-10, all'intenere. Sì, uno lo sento, ma l'altro è fuori frequenza proprio. E c'è apparecchi per pezzi, dammeli già, ma per pezzi però, Se funzionate, se non c'è la pezzeria, te li posso anche mettere a posto, ma per pezzi mi va bene. Faccio un paio, ne ho poi un attimo, lo do a Gigi, l'ala, capite, per pezzi, ti ha volato quello là, non so se l'hai messo a posto, quell'Argus, quello era completissimo l'apparecchio, e io non ne ho, già ci sono tutti a 23, quelli li colleziono, di quelli che niente, c'è questi qui che sono una parte, anche un presidente mi sembra che c'ho. Va bene, ok. Allora, quello della Gigi non c'è problema, se sono apparecchi da mettere nella cartata, dagli a lui, se li mette a posto, se fa quello che deve fare, non c'è problema. Unino a Dino ne avrà fatto anche pezzi per sapere, però ci possono mettere, non è un problema, a me non me ne frega nulla, hai capito, non mi interessa, hai capito, l'unico che ha volato... Mi sono pentito perché l'ho vantata, questa era 48, l'ho fatto a mia cucina, due volte l'avevo accesa, volevo tutto il primo tipo, e poi non pentito, giusto per avere, ma non me ne frega più di tanto, vai, gi, riprendi. Solo per pezzi mi serve, se c'è parecchi per pezzi sono questi. Se funzionante dalla a Gigi non me ne frega niente, solo per pezzi mi serve, proprio per staccare i display, forse qualche integrato e cosa così. Infatti ho avuto difficoltà a trovare i LED a Giuseppe, ma ormai non sono riuscito a trovare per culo uno di un portatile e l'ho cambiato, capito? Che LED servono? Che LED servono? LED dei canali era più che altro, e poi invece c'era, a parte il LED che aveva dei problemi, c'era la resistenza, certo. l'avevo cambiato e faceva lo stesso difetto, capito? Quindi adesso devo cercare la resistenza nelle... dove c'è il commutatore dei canali sopra, quelli stessi che alimentano il LED, deve esserci una resistenza bruciata, adesso li devo cambiare, a posto, capito? E per tutti gli altri barattini che avevo, pensi, avevo tutti quanti regalati a Adriano e sono rimasto senza io. Addirittura c'avevo due tornado che avevo dati e tornare, arrangiati, mettiti a posto. L'Argus ha volato, a chi ha volato? Ha volato Adriano, che c'era ancora di là, non riuscito a trovare le cose, il transistor, l'ho regalato io. Gli altri, tutti i pezzi li avevo messi, l'unica cosa è che mancava un transistor che non si trovava. Infatti con il Mario Mars l'ho messo a posto perché non si trovava un transistor. Manca il colpo, lo trovi. Io avevo molti premi in galleggio, non li sono montati, che vale, li ha carnavalizzati fino, che sono delle Affer, c'è un altro 200 plus, però un 200 plus c'è qui che ci vuole poca roba, e capito, non me li ha provati e va pulito tutto dei baracchini, ho detto non ne faccio più, e dopo tanti è roba che lui ti dava pezzi, però là si può mettere a posto, penso io, non ce l'ho qui da una parte, voluto a Gigi, non mi interessa, non ho capito altro me. Pronta, sono per collezionare questi a 23 che lo sto usando, mi ha paura che ruoli, rubati, e ogni tanto mi tende anche per far funzionare quella roba che mi ha dato tu, il BV, che va alla grande qua. Ok, poi niente, siete c'è qualche altra cosa, io devo vedere a Maddalena, perché se c'è un po' di del laboratorio ce l'hanno loro, bisogna vedere cosa c'hanno. E vabbè, adesso già me ne recupero un po' di roba, dai, già vedo di andare qualcuno magari che ci abbia anche in qualche laboratorio, non se ne fa niente. Solo per pezzi mi servono per altro. Se insomma pare che ci hanno accattato la riparazione da Luigi, io sono contento di vedere a lui, tanto a me non mi servono, capito? Io sai che più di questi apparecchi altri non ne voglio. Mi serve solamente per poter utilizzare i componenti, più che altro. Se sono sbarrati, che non si possono mettere a posto, quello che ti piace, se ti capitano, che magari te la regala qualcuno, me lo dici e poi me li passi. Infatti Giuseppe. Giuseppe. E non mi funziona la cosa, l'antenna, cazzo, non ho capito perché. Boh. Non ti funziona la cosa, è grave. Gigi, riprendi. Antonetti. Sì, ah. C'è l'antenna rifettosa del piede, deve essere, no? Cazzo, buco, ti abbia fatto dare il difetto oggi di quell'antenna. Ma io sono entrato di tranquillo, sì. Lemme, lemme, lemme. Le baracchine, dietro al baracchino, non è che magari le toccato, no? Perché è strano che sta scendo basso. Però, maestro, però non fa. Allora che ti sentiamo, mi? Sento, ne ho uno, se stai dicendo a noi ci possiamo anche spostare, non c'è problema. Io ti sento qui con Santiago, però mi avrei detto adesso che stiamo disturbando. Con noi, a parte che lui è entrato dopo, prima cosa, e poi se ha problemi basta che chiama con gli amici suoi e si sposta il canale, ora siamo a coso qua, al circo siamo. Non ho capito, entra sulla regolazione, parla per i cazzi suoi e poi vuole avere pure ragione. Uno fa bene, dice guarda, posso fare una chiamata, va, chiama quello che vuole chiamare, poi come si chiama si sposta il canale. Ora già compreso. Ma perché l'acero sono parlato poco fa con Gigi Vulcano e con Luca, sono cielo perché è venuto mio figlio, capito, e mi sono spostato, però il canale c'ero da prima, c'ero, cioè se andiamo su proprio tutta asciutta. E che se ne valeva a far quello tutti e tre, ho già avuto in dinni. Ma dopo mi arrabbia come, che poi cudo, mi devi noi cudo, tanto, cioè da appena c'ero più di un'ora c'ero qui, poi sono c'ero perché è venuto mio figlio e basta, no? E cercavo però con Gigi poco fa e con Corri, con Luca, che poi Luca sta facendo cose e ha mollato il tutto. E niente, poi ho sentito la voce, ma lui non c'era, io giù sentivo il baracchino, abbiamo 18, però lui non c'era minimamente, cioè il nostro, diciamo, sono loro che magari se mi sentono, qui c'è una ruota, come faccio a sapere che di là deve modulare lui e devo cambiare canale se ci sono da prima, cioè non ho capito, no? E a tutti i dì, mandalo a cagare, e non avere la voce. Allora, sventiare il cazzo con loro, se non si parlano tra gli ozieri, mole, si pattata e butuzzo, cosa ne so io non li sento. E quindi loro sono per fatti loro, noi siamo per fatti nostri, seppure lui sta scendendo da loro, bastava chiamare al telefono, o al limite chiedere di fare una chiamata e si spostavano, il discorso è quello, ma non me ne fotte proprio niente, ci sono più di 30 anni a baracchino io, noi facciamo capettare dai novellini. Mi ha fatto anche nominativo e mi ha dato fastidio, voi, mi incanto gli amici Antonio, che non mi posso dare una busciacca, due amici, di no, che non ho problemi, metto la mano in tasca, ando, compro, capito, e poi non mi fai da fiumi, non ho cioè, a come io sono fuori conca, cioè, e perché ha fatto il nominativo, cara gentilmente, me lo dice, mi sposto anche di canale. E vabbè, fregati, già sono spostati, a quanto sembra, quindi a puttettini, non ti incazzare. Capito, a punti di dini, non ci pensate nemmeno, so che da fastidio ma fregatene, allora vai a l'ultimo arrivato fa come Berlusconi comanda. Antonio, se sto parlando da prima, che lui sente che io sono solo in un questione, sto parlando, hai capito che lui poi è entrato per parlare con Tizio e con Caio, che io neanche li sento, cioè per forza se io parlo che ho una, diciamo, una stazione che arriva lì con un discreto segnale, lui mi sente, però non sto rompendo le scatole a nessuno, vuol dire che spostatevi o si spostano loro, mi stai apparando più canale come, si spostano e niente, no? Non è che voglio pubblicizzare, però io ce l'ho la prima come. E appunto per quello, no, a tutti lì, non ti hanno aiutato, già si sono spostati, ce l'ha capito. Sei intelligente già lo capisci, non ti preoccupare, sei una persona intelligente. Se invece è tosto come l'asino, fregatene, che l'ultimo arrivato non è raccomandato a nessuno. La nostra c'era già a Sassari, prima di esserci loro. Quindi, anzi a parte sono entrati in sovravalutazione, quando c'era Giuseppe che stava parlando si sentiva lui parlando e gli altri amici suoi. Dopodiché si è lamentato, si sentate che stava arrivando forte. Fregati, la putti di non ci pensare. Antonello. Mi Giuseppe. Guarda com'è adesso, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Ecco, adesso sei tu, sei perfetto. Tappa, attenzione Gianni. Se ci arrivi bene Giuseppe, ma dove ce l'hai, macchina piazzato con QTA Capiscio? QTA Capiscio. No, c'è un difetto, Antonello. Avanti, becche. Ciao K2, mi hai sentito la Usini, mi hai ascoltato, in compagnia mia di Gianni K2 e Giuseppe Leoncino. Avanti Gianni. Qui sta controllando Nino 1, io che non lo so, mi chiamo ogni tanto, attenzione Nino 1 da K2. Mi stavo incazzando lì, che nella parte di lati che stavo facendo, noi ce l'avevamo da prima, cioè non è che adesso io mi voglio impadronire del canale, pensavo lì che la parte incazzanti che io stavo con gli altri dei Sassari, diciamo, disturbando, hai capito? Cioè me la potevate dire se è così mi ero anche spostato di canale lì. K2 mi sembra, c'è di TV, ok, niente, compone poi per meno 1 se lo copi. La voglia che già l'ascolto, ciao meno 1, salutoni, ben ascoltato, Mara Sassari. Ok, perfetto, vi salutoni, allora, no, niente, però sono per la parte di altri, no, niente, perché ho detto io, ce l'ho la prima, se poi sono, come si chiama, ho detto, noi ce ne stavamo già modulando da parecchio tempo, ma non è successo nulla. Ok, Giuseppe Leoncino, dimmi, ti ho detto, se sei in cucina a caffè oppure in stazione mobile. No, no, a casa, già, a casa, QTH, QTH, cambio. Adesso arriva bene, poco fa è disceso di un bene di segnale, infatti controlla, non so che se che cavo c'è nell'antenna, hai capito? Se c'è, molte volte anche la calza, se non fa contatto fa quella poliqua, anche qui molte volte l'ha fatto, hai capito? No, niente, va alla grande, stai arrivando. E K, adesso vediamo, dai, tanto la prossima settimana deve venire Antonello qua perché dobbiamo fare un lavoro, dai, e almeno controlliamo tutto quanto. Ok, perfetto, l'amico di Uci mi ascolta, attenzione K2, mi ascolti? R, ti ascolto, K2, ti ascolto, non ti ascolto Santiago 9, però ti ascolto, la radio è comprensibilissima, una radio di 4. Ok, c'è Gigi Vulcano, io più di una volta l'ho chiamato a Gigi, vediamo se importazione Gigi Vulcano da Capri avanti. Sì, sicuramente Gigi è Carmen Gianni Cacchi Radio. Ok, fa un po', riprendi e fai girare. Com'è? Buona domenica, siamo un pochettino da questa frequenza qui, abbiamo fatto non c'era la Pomponio, poi Giuseppe Leoncino che ha problemi, sicuramente io penso che sia il capo dell'antenna, perché poi è aumentato, Santiago è disceso, non lo so. Ok, giù, cosa si dice? Che cosa si dice? Niente, che oggi è domenica, che sono le 15:24 minuti. dunque, che Fiorentina Napoli 1-1, e cosa vuoi che ti dica? Adesso ci sono le altre partite. Stamattina l'ho guardata Fiorentina Napoli, ma non è una bella partita, ma non più di tanto comunque. Ok, perfetto, del grebitometro non se ne parla, così è. No, ma non mi interessa il grebitometro, non me ne frega per niente, guarda. Ma possono mettere tutti i grebitometri che vogliono, che se ne frega. Non ci sono problemi. Penso anche a domenica Instagram, guardando. Quando sono sceso anche lì l'hanno messo. Accendete il giornale sempre, concuso, votazione, mamma mia, basta. Una domenica non si può passare senza sentire questi, almeno una domenica giù. Ok, Leoncino, vieni avanti. Sì, si vede che sta controllando l'antenna. Attenzione Giuseppe, hai risolto? No, non c'è proprio già, non c'è. Non c'è proprio, evidentemente sta controllando l'antenna, so, avrà qualche spezzone, non so. Sicuramente già sistemerà tutto là. Sì, perché mi è arrivato Santiago 9:05, 9:10 e poi Santiago 1 di colpo, così si vede che c'è qualcosa, qualche contatto che non è perfetto in antenna, eccetera. Quindi vabbè, dai, già se la sistemerà. E così è già, e cosa ce ne vuol dire? Non lo so, io l'unica cosa che posso fare mi fai così adesso, aspetta, e tu mi dici se la radio si è rovinata, così, ecco, 1, 2, 3 prova, e 1, 2, 3 prova, dimmi com'è andata la storia. Che prima di dirmelo tu stavo per dirtelo io, perché se no stavo riaprendo la radio, e quindi già sei a segnare che ho messo la radio, è 9 e passa sul 9:05, quando molli è 7 e qualcosa, quindi hai ragione, non è di nuovo che se ne c'è dovuto di sensibilità, no, è così come di l'altra sera, 9:05 giù. Ok, ma la radio si rovina? Non si rovina più, non so perché, però io anche io sto usando qualche cosa, come ti arrivo, come il segnale mio Giuri? E qui è 7-8 quasi, là. Quasi 8. Però la radio è bellissima, è chiara, forte, molto forte. Ultimo, quella è valvolare, vero? E anche pelosa la radio, Per la tenda, quello mi sto usando più. È ancora sul tavolo, hai capito? Lo devo levare, ma già se la parte da una parte. Ho lavorato, l'ho coperto con un... No, sono andato in Inuiti giù, è questo, sempre in Inuiti. Sì, ho capito, ma il dinamito è valvolare quello? Quello che mi ha dato Pomponio, il 131. È ottimo, veramente bello. Avanti, Pompu. Stavo dicendo che è peloso, Gianni. E tu sei maniaco. Gappa, già va bene, quando uno è Maria, prima di io a quel buio, diceva quello. Sto cercando l'esistenza, mille la mia, già ci ho fatto, l'ho trovata. Così la cambio al display di Giuseppe, così c'è il display nuovo come si deve, dello smittere. Perché gli si erano spenti i mezzi, si erano spenti. Cosa era successo? Quale numero si era spento? Il primo, il terzo, il quarto, qual era? Il primo display che si è spento, una di quelle cose, quindi adesso glielo cambio così a posto, aspetta che mi stanno chiamando. Ok, vabbè, d'accordo, ti stanno chiamando, avanti già. Ok, perfetto giù, mamma mia. La domenica giù è una mostra, capito, ma lo sono in casa, perché non esco, hai capito? E nulla, faccio casa lavoro, lavoro a casa e quindi le domeniche sono ancora più monotone perché non c'ho neanche ad affacciarmi, andare a lavoro. Non vedo l'ora di essere lunedì per rientrare al solito tram. Non lo so, poi questa mattina qui ha piovuto, adesso invece sono uscito per buttare la mondezza e c'era il sole, boh, non si capisce più niente di questo tempo, freddo comunque non ce n'è più di tanto, diciamo che già perlomeno qui nella zona dove sono io e diciamo che è tranquilla la questione per quanto riguarda il freddo, penso che sono uscito solo con maglione senza giubbotto, sono riuscito perciò a fare 200 metri di strada per buttare la bondezza. Va bene, dai, ad ogni modo accettiamolo come viene il tempo e tanto non ci possiamo fare niente noi. Ho giusto io il tempo che a gennaio faccia il tempo che deve fare a gennaio, hai capito? A marzo devo fare a marzo, ho capito, le stagioni devono essere, diciamo, regolari, hai capito? Poi se inizia a fare bel tempo, diciamo, nel mese di gennaio, vuol dire giù che c'è qualche cosa che non va, hai capito? Come molte volte in dicembre ho visto che certe piante avevano il fiore, cioè il tempo deve essere giusto, come le stagioni, hai capito? Credo non ce n'è giù, più i giorni scorsi che era proprio una tramontana, direi, proprio non facciamo una cosa, facciamoci dalla porta, no, ieri a mattina stavo bene, perché esco anche di mattina presto, e, però molti giorni fa era pungente proprio. E avanti Giuseppe, adesso già sta uscendo bene, avanti Giuseppe. No, no, boh, c'è qualcosa che non va bene, no, no, no, non è problema di antenna, però c'è qualcosa del microfono, boh. Del microfono, no, questo è un segnale, non è del microfono, assolutamente Giuseppe, no, non può essere. No, perché Santiago è salito 9.10, non lo so io, poc'anzi era 9.10, Santiago 1, adesso mi si è arrivato 9.10, dunque non è questione di microfono, è questione di antenne evidentemente. Non c'è il capo, allora non c'è il capo. Perché non c'è niente il microfono, mette la portante e ciccia, se c'è l'emissione è buona, cioè, se non c'è non c'è, basta. Capito? Controlla bene il PL, controlla bene, controlla che faccia bene contatto, soprattutto un po' lo caldo, capito? Perché se no la studia incomincia a male. Non ce l'hai il rollo, ecco, per controllare se è stazionaria. Giuseppe, se stai parlando, sì, il nuovo è sparito, non ti sento adesso, adesso ti sente, addirittura nell'orario ti sento. Avanti Gianni. Io non sento più, non sentivo, no, poi c'è anche la calca giù, molte volte se c'è il capo fine dove c'è il riduttore del PL lo fa, e se la calca non fa contatto bene lo fa, perché il polo caldo, diciamo, giù non peso, si è saldato, che crea problemi, e la calca molte volte fa quella cosa lì. È questione di antenna, di cavo, qualcosa, qualche introduzione, cioè perlomeno qualche contatto non perfetto, perché se no non può uscire un momento 9.10, un momento che non lo sento, non è possibile. Se fosse il microfono, il discorso, il microfono è per quanto riguarda la radio, non per quanto riguarda il segnale, dunque io la penso così poi. Oh. No, no, il microfono quando parla è perfetto, è proprio il segnale che mancava, perché molte volte se il microfono non funziona, giù, capito, il segnale non cambia, hai capito, non si sentirà di poche, però il segnale, no, era proprio scelto il segnale a Santiago 1 poco fa. Infatti, va bene, adesso non so stasera. Vediamo un po', se si mette buono mi farò un bel giretto, se no pazienza, se non me la ritrovo a casa, se il tempo non lo permette, vediamo un po' cosa fare, intanto per questo entra poca gente, anzi diciamo che non entra nessuno, si può dire, perché anche stamattina, ho lasciato tutta la mattina accesa, non ho sentito nessuno, sì che è stato male, per fare a perdere tempo aspettando qualcuno, tanto vale, se fa bella giornata stasera me ne vado in giro dopo le partite, ciccia. Ok, io diciamo qualche sera frequentato, qualche sera molto meno, c'ha i suoi impegni, hai capito, bisogna anche capire, diciamo che come agli anni forti non c'è più nessuno, perché anche prima facevano le belle giornate, giù tutte quante le cose, c'era anche il bon del lavoro ancora, però la gente c'aveva anche qualche minuto in tasca, però dopo pranzo c'era il pienone giù. Prima sì, prima era tutto un altro discorso, ma adesso adesso io, e allora no, stavo dicendo male anch'io adesso, l'avevo premuto male, stavo dicendo la gente è stanca di stare a baracchino, evidentemente, preferisce farsi una bella passeggiata, magari incontrare degli amici fuori, andare a prendere un aperitivo eccetera, e ciccia, e vabbè. Però vediamo un modo come passare il tempo ugualmente, già non ci sono problemi. Ok, sì, no, ma può andare io a portarmi al bar, sono il tipo giù. Nemmeno io, sempre quello, al bar non è che ci vado, ma se incontro un amico e devo prendere una aranciata, vado e la prendo insieme a lui, perché no, con un caffè, per dire, no? Quello non è che mi trattengo da non offrire un caffè ad un amico, ci mancherebbe altro, voglio vedere. Allora sarei tutto un cane morto. Siccome sono stato sempre di buon cuore, io queste cose non le ho mai guardate, di conseguenza non me ne frega niente. Mi spende 10 euro insieme all'amico, magari per offrirgli una bibita o una birra, che ne so. Va bene, va bene. Vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare. Avanti, vuole entrare qualcuno? No, tutti muti. Tra virgolette, no? Avanti Giuseppe, ci sei riuscito a mettere a posto? No, Giuseppe, non riprende, si vede che non è riuscito a trovare il problema, che gli si è presentato a riguardo del cavo dell'antenna che so io. Va bene, va. Riprendi già, frighiamocene. Infatti, è buon pugno, ma con buon pugno c'è, ma non è a Bisese. L'hanno chiamato, ha detto poc'anzi che l'hanno chiamato a casa, si vede che è indaffarato anche lui. Ok, è così. Comunque, bene o male, non si può dire che non si nutra, il capitolo baracchino funziona, durante la settimana tre camionisti, poi ci siamo noi, un po' una mezz'oretta, la sera, poi dopo cena, e diciamo un po' funziona, dai. Beh certo, un po' funziona quando funziona e quando non funziona no. Noi ci disperiamo, non è un problema, figurati. Se un po' vi daremo lo stesso, già, solo che se uno ha intenzione di, diciamo, di mettersi e fare una stazione come si deve, anche a questo punto non ne vale più la pena. Sinceramente parlando, non mi dà cuore, nemmeno di cambiare l'antenna, preso un po', e non me ne frega niente. Tu saremo a vedere che cosa succede più là. Se no, ciccia, si spegne tutto, si chiude tutto e troviamo altre alternative. Ma io, diciamo, dunque, se capito, gli apparecchi mi piacciono sempre, anche se c'è meno traffico, però se c'è lettura, a mettere poi l'antenna, va per l'antenna, c'è la mantova, l'ho montata un paio di anni fa, hai capito, forse per quella Grand Prix. Da un quarto mondo ho messo la mantova, ho migliorato anche un po' di prestazioni, sia in ricezione che in trasmissione, però diciamo tutto sommato, la gente sì, ce l'ha il baracchino giù, però hai capito, molte volte adesso anche c'è internet, chattano su internet, cosa che io ce l'ho, il computer, c'ho tutto, anche quello c'è la telecamera, tutto portatilino, ma non mi interessa, i miei figli avevano messo su Facebook, così al papà, giusto, però sono anche amicizia, non voglio chattare, non mi piace, mi piace più il baracchino, sono sempre per il baracchino io giù. Anch'io, sempre cosa anch'io, anche se riconosco che il computer è molto più importante del baracchino, questo sì, però a me piace più il baracchino, mi piace, non me ne frega niente del computer, sì, guardo le partite io al computer alle volte mi guardo la televisione, quando mi scade la scheda della che ho guardo la televisione, allora me lo guardo al computer, tutto schermo stesso, il mio computer ha un monitor abbastanza grande, diciamo, perciò si vede anche bene, molto bene. ATDHE.net, clicchi, metti live sport, tic, e ti appare la partita, non ci sono problemi. ok, solo che il problema è che molto spesso il commento è in lingua straniera. E allora il discorso lì comincia a essere un po' più difficile. Prende la radiolina, accende la radiolina e segue la radiolina e il computer. Però tutto questo quando finisco la scheda, che poi magari non l'ho ancora rinnovata, allora mi diciamo che vado verso il computer, se no io ho la scheda, non me ne frega niente, televisore da 40 pollici, ti puoi immaginare, è un cinemascope, insomma, ecco, va benissimo. Ok, di nuovo io diciamo, se no il computer di nuocere a mio figlio, hai capito, lui sta anche ore per chiata. No, io mi sto guardando questi vecchi film giù, mi ha di sera, poi l'ho beccato il film con Gregory Peck, Vacanze Romane, mi piaceva, però era in un'altra lingua giù, beh, non ce l'ho fatta, capito, ci potevo mettere in lingua italiana, ero 3 ore, facendo, mi è venuto il sonno, e gli ho spento tutto, qualche film di Totò, con Alberto Sordi, questi vecchi film mi guardo, poi peraltro, guardiamo, vecchi baracchini, queste cose, qualche schema e altro non mi serve. Ok, sì, beh. Sì, io guardo lo sport, guardo, cioè per tenermi informato in fatto di sport, soprattutto calcio, eccetera, no, al computer, perché lì vedi tutto, vedi calcio mercato, vedi tutto, tutti i movimenti delle squadre, insomma con qualsiasi cosa riguardante lo sport, sia per il calcio, per il ciclismo, per il motociclismo, eccetera. E poi ogni lunedì notte lo utilizzo per seguire 7 Gold, cioè il processo di Biscardi, perché prima c'era la televisione, c'era Sardegna 1 che aveva la convenzione con un'altra TV italiana, si vede che non ha pagato più i diritti, allora 7 Gold non c'è più qui a Sassari, capito, perlomeno le trasmissioni sportive. E allora metto il computer e me lo guardo al computer, seguo al computer lo stesso. Anche, no, perché mi fanno ridere quando si azzannano tutti quanti quegli opinionisti che ci sono, fanno anche ridere, soprattutto qualcuno di lì, addirittura si mette a piangere quando perde il Milan, buffo, un uomo grande, ma quando mai uno deve essere così imbecille e deficiente? Io ammetto che il tifo è tifo, però che uno poi voglia più bene al calcio che alla sua famiglia, io scommetto se muore la moglie disgraziatamente non piange, per il Milan piange quando perde, qui c'è un blocco. Sì, ci sono quelli proprio sfregattati e tipo giù, però no, io sono sportivo, picca il migliore, vuol dire se quella ha vinto, che diciamo se il gioco è stato regolare, tutte quante cose, e sono contento, non mi devo dispiacere, quando uno sportivamente è più forte che merita, non mi devo dispiacere, non devo fare malattia, assolutamente no, il tifo è bello, però sempre diciamo nei limiti. E beh certo, il tifo non può diventare fanatismo, perché se uno è fanatico allora non è più sportivo, ci mancherebbe altro. Deve riconoscere i meriti degli altri anche, i meriti della squadra che tifi e i meriti anche degli avversari, deve riconoscere. Ma se uno incomincia a piangere solo perché perde per dire la sua squadra, quello è fanatismo, lì c'è Macchini che poi in campo, si dovrebbe mettere al sole, così almeno gli si scioglie un pochino di Macchini che è in testa, capito? Noi a Sata diciamo, ti si scioglie lo sì, un po' in capo, gli si scioglie, ci ti metti al sole. Ma comunque ognuno fa quello che crede, chi se ne frega. Ma c'è gente giù anche in questi cosi che passa anche alle mani, passa da queste cose, che poi, cioè a loro non gliene frega nulla, mi piglia un sacco di soldi, così giocatore, mi devo pisticciare per il tifo, ma lasciamo perdere, non stato mai tifoso in quel senso giù, né geloso di nessuno, anzi quando uno c'è una cosa che si rifiuta, sono contento, sono il più contento del mondo, quando la gente arriva ecco a una cosa sono il più contento, io ho quel carattere di giù, me ne rido, hai capito, quindi solo perché scherzando l'altro giorno che Antonello ha comprato quell'apparecchio, dice che ci manca dei cori, poi ho detto questi appoggi, io ero contento perché stava cercando, ha trovato forse una cosa di più di quello che stava cercando, io sono contento, ci rido sopra giù, hai capito, così bisogna niente, ma vai. Quelle, sono tutti atteggiamenti di persone poco intelligenti, per conto mio, poi io, poi altri che mi sto sbagliando, ma io la penso così e basta. Va bene, va bene. Vediamo un po' se c'è qualcuno che vuole entrare avanti. No, non c'è nessuno già. O non mi interessano i discorsi che stiamo facendo, oppure no, non c'è nessuno, in ascolto. Fate l'amore, fate l'amore. A dirmi com'è andata la fatta. Hai capito giù? No, ma prima io andavo, diciamo, hai capito, sempre in giro, giù, tutti, la macchina qui, la che invece è quella, non mi dà fotti giù, adesso e mio figlio, hai capito, mi era trovato, l'uomo di Zecca, c'è un 56, c'è con la poco, io, ma non discorso che non con la poco, e lui c'è il Mercedes, qui, là, e non me ne frega, forse ci vuole più con la macchina vecchia che con la nuova, l'ho fatto cadere giù. Anche Claudio mi sgrida, perché stai usando questo e non usi il K? A me come accendo accendo sempre questo, poi quando a Claudio devo cambiare radio. Vabbè, quello non è un grosso problema. Sì, no, io ho finito di comprare macchine grosse, che me lo fa fare? Prima di questa avevo 1600, avevo la Opel Vectra, ma boh e basta, boh, non me ne frega più niente, mi va bene anche un 1100, quella che adesso è il 1130, è scendata, è nuova, perché ha appena 17.000 km, dicevo 3 anni e mezzo quasi, e ha appena 17.000 km, va bene che ho anche l'altra, ho anche la Ford Fiesta, che è quella che solitamente, soprattutto la domenica, uso quella, la Ford Fiesta, quella già ne ha abbastanza di chilometri, ne ha oltre 100.000, ma quella è una macchina che ha già 7 anni comunque, ma è nuova sempre, non ci sono problemi. Durante la settimana la usa mia figlia, poi la domenica mia figlia, poi già c'è il suo fidanzato che ha la macchina, sì che non ci sono problemi, e allora quella me la prendo io. E la mia, quella nuova rimane sempre a riposo, la uso solo durante la settimana, capito già? Avanti, buon po'. E a positivo, oh, yeah. Usate le macchine, così fate le passeggiate, siete a posto. Le passeggiate quando la giornata ce lo permette, anche mi giorno, se no cosa facciamo? Ma riesci da casa, da qua, vai a casa anche su di tua madre, o di tuo fratello, o di un parente stretto, insomma, ecco, tutto lì, perché le passeggiate veramente si fanno quando le giornate sono belle. Sì, di solito diciamo che una passeggiata quando è bella, diciamo, la faccio abbastanza lunga, Alghero, Porto Torres, anche Sentino, insomma un po' dappertutto, ecco, anche nei paesi, anzi adesso mi sono proposto di farmi un bel viaggetto, appena inizia il tempo buono verso Carbonia, perché lì c'ho dei parenti, insomma, che tra l'altro anche mio nipote al baracchino, sempre stanno rompendo le scatole, non ci venite mai, ma devo fare 600 km per venire lì da voi, non è che posso venire molto spesso, posso venire una o due volte l'anno, ma non di più, e che aspettiva, che buoni sono 300 km da Sassai, 300 a tornare sono 600, e ci vuole uno, mezza giornata solo per il viaggio, andato e ritorno, e io non ho voglia di guidare così a lungo, vai Gianni. Ok, è 5-2, io ho fatto servizio Iglesia, già lo so, non saprete, però è capitato che c'era papà che aveva la Golf nuova di pacca, era per uscita, e quindi allora si poteva tirare sempre a 140 fissi Antonero per arrivare a casa, e capito, e lontanino, e Massimo se la fai in treno giù fino in Maie, riprendi a come. Giulio, un attimo. Giulio. Adesso stiamo uscendo, Giuseppe. Adesso di nuovo basso. Quando mi hai chiamato eri fortissimo, adesso sei di nuovo basso. Non lo so perché. Adesso sei uscito di nuovo bene, cosa stai contando al filo che muovi, vedi un po' cosa sta succedendo. Ora, no, guarda, tengo così il microfono dritto davanti a me e funziona. Non funziona più, vedi? vedi? Ora, ora, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Già funziona. Ah? Già sta funzionando. Qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adesso c'è per bene adesso, sei perfetto. Oltre anche adesso, di che se vuoi immaginare, adesso sta andando bene. A me non riuscirai pure a scoprire dove dipende, no? Se è per questo microfono, provo a vedere lo spinotto, se è innestato bene dentro la, il coso, il barilotto, se l'ho preso a pannello. Ma prova, insomma, qualcosa c'è, o Giuseppe. Avanti, buon po'. Sì, non è questione di preso a pannello, no? Vabbè. Ci andrà bene, ci andrà bene. Vedi come tu scendo bene. Sì, stai scendo bene tu, stai scendo benissimo. E se dice che muovo il microfono e esce, mentre invece lo mette in un'altra posizione, non ha sentito e non esce, boh. Cosa lo dica? A me mi sembra una questione di antenna, cioè di cosa, di contatto, di piede o qualcosa del genere. Poi sarà, voi la controllate, è chiaro? Avanti già. E ok, però a me, perché prima diciamo che forse un po' si abbassava di come cose anche il microfono, mi Antonello, hai capito? E qualche capo del PTT forse che non fa contatto, perché quando la radio quando modula poi è perfetta, se non è né graffiante, né, né, e non si ha Giuseppe, qualche come si chiama, filo che o il PTT sporco. Hai capito? Non so come che microfono c'hai, se c'ha, diciamo, forse poi c'hanno quei cosi, più quelle tipo alette di rame, tipo quella che c'è nelle facce, hai capito? È un po' di ossido, molte volte lì non aggancia bene, massimo se perdo la moto, ok? Giuseppe, prova a venire avanti e vediamo un po', dai. Forse sta controllando, no? Attento Giuseppe. Guarda, me lei Giulio. È perfetto, così è perfetto. Cos'è? L'hai scoperto da cosa dipende? Beh, adesso sei uscito di nuovo basso basso. Boh, no, non so cosa dirti Giuseppe, boh, non lo so. Ma cosa stai usando? Quello qua è mio, il garage stai usando? No, no, l'Intec, quello che mi hai regalato tu, Giulio. Boh, adesso sei uscito benissimo lo stesso, boh, ma da quando mai? Ripeto, controlla bene che c'è qualche falso contatto, Giuseppe, perché non è possibile, perché la radio arrivi benissimo qua, 9 più 20, neanche di più, la radio è fortissima anche, tra l'altro, ma ci sono dei momenti che non riesco a quasi a sentirti. Però ci ho copiato, e senza segnale ti ho copiato. Qualche cosa c'è, lui non dico che questione di antenna, poi. O tu, avanti. Mi sa che sei disandato dopo la carica dell'antenna. Cosa? Visto come lo muove, poco a poco, basta una piccola vibrazione che prende il segnale. È un'antenna, qualcosa nell'antenna c'è, sicuramente c'è qualcosa nell'antenna. Lo sentivi poc'anzi quando stavo facendo bene il pompo? Che già lo sentivo già. E usciva fortissimo, no, non forte, fortissimo usciva. Qua 9 più 20 e oltre anche. E la radio era anche buona. Non so cosa dirti. L'antenna, probabilmente il vento di nuovo l'antenna. Può darsi che hai ragione tu, mio Antone. Quindi si è attaccata veramente la carica dell'antenna. Il vento magari c'è il momento che tocca e il momento che non tocca. E che ne so. Avanti già. E deve essere così. No, perché se sicuramente è la calza, perché un sacco di volte a me me l'ha fatto che si abbassava. In ricezione, Giuseppe, com'è? In ricezione, diciamo, rimane sempre la stessa oppure cambia anche ricezione? E non sta rispondendo, Giuseppe. Non sta rispondendo. Ma io dico che l'antenna. Insomma, dipende dal capo in poi, fino ad arrivare all'antenna, il problema è lì. Non può essere diversamente, secondo me. Antonello, devi fare un salto, forse. Sì, ma non stasera, Icard. Devo fare il barattino su, prima poi il limite è quello di farlo un altro giorno. e l'antenna. Però l'antenna sta funzionando come se non va in trasmissione, anche, c'ha problemi anche in ricezione, che passa il segnale quando riceve, anche quello che sto dicendo io deve essere così. Esatto, sì. E per forza, se il contatto le manca anche in ricezione, questo è sicuramente così, non ci sono dubbi. Vabbè. Per quanto ne so io, Giuseppe, l'antenna ha messo in una maniera un pochino critica, hai capito? Perché ha poca possibilità di salvarla come si deve. So che è così, vero Antonio, è così. Pensa che qua c'è proprio l'antenna senz'altro. Giulia. Se avessi risaldato l'uovo la carica, se avessi risaldato. Sì, ma sicuramente così, il vento gliela muove, quando gliela muove fa ben contatto e sente bene, mentre invece quando muovi il vuoto colpo il vento gliela rotta e lo stacca, ed è così, sicuramente così, non ci sono dubbi. E vabbè, già lo si sederà, avanti e già. Che ma che antenna c'è Antome? Ce l'abbiamo a 27 L, ma c'era la carica proprio quando l'abbiamo saldata, era proprio l'ho dovuta stringere un bel per poter agganciarla, mentre si è risaldato la stagno. Adesso questa volta ne metto 2 cm di cavetto, e così almeno rimane più malleabile, può ballare quanto vuole, non succede nulla. No, perché sicuramente è quello, perché ogni tanto arriva, perché la radio non c'è nulla, perché poi quando arriva normale, se c'era stato un nome della radio non era arrivato allo stesso segnale, arriva pochissimo qui. Ok, giù, riprendi. Ok, sì, ma è così, sicuramente questo è di antenna, non ci sono dubbi. Stavo dicendo, Antonio, una volta l'ho spiesto anche a me, questo, tanti anni che ho adesso, ma questo 10 anni fa. Poi, siccome a saldarla veniva anche molto male, nel senso che non ci voleva un saldatore ma veramente potente perché non ce la faceva a saldare, allora gli avevo messo una vite autofilettante in acciaio inox, l'avevo messo con il filo, è rimasto sempre attaccato, è già 10 anni così, dunque forse è la soluzione migliore, perché le saldature, si sa, a forza di muovere prima o poi si staccano, forse sarà meglio fare così, con una vite di quelle a acciaio inox, in modo che non si arrugginisca e il contatto è sempre perfetto. Capito Antonio? Non so se si può fare in quell'antenna lì. No, non si può fare, solo l'avrei già fatta a quest'ora, quasi la faccio. Gliela rimetto un pezzo di cavo rigido, gliela aggancio uno all'altro e glielo isolo e poi glielo saldo come si deve. Beh, ho capito. Vabbè, allora se sei meglio, va bene così. Avanti, Giuseppe, ci sei? Anche tu, un malucchino. Avanti già. Gente di spazio mi è sembrata, non sono sicuro però, mi sembra così. E niente, Antonio, mi è venuto oggi un flash a testa, ma Cucciolo che fine ha fatto, ti ricordi di Cucciolo? Era un bel che non lo senta Giovanni Cucciolo io. Me lo fai orarne. Te lo dico io, aspetta un attimino. Non so se è il caso del libro qua. Allora, Giovanni Cucciolo è malato, in questo momento è ricoverato in ospedale, non vi dico altro. Che cazzo? Non mi vedevo sempre tranquillo io, era tranquillo, adesso all'ospedale. Lei non c'è niente di male. Insomma, va bene, speriamo che tutto si risolva. Sì, io con Giovanni Cucciolo mi vedevo quasi tutti i giorni, fino a un mese e mezzo fa, forse 2 mesi fa, anche tutti i giorni mi vedevo. Veniva in bottega, veniva e abbiamo fatto anche dei pezzetti per fare delle piccole piramidi per la numerazione dei tavolini di un ristorante, insomma, che lui si era divertito poi a incollarle, a verniciarle e a numerarle anche. E proprio questa settimana, appena passata, sono andato io a comprare il pellet, sono andato e lì c'è un amico che è amico intimo anche di Giovanni, che erano sempre insieme, e mi ha detto, ma Giovanni, l'hai tu visto? Ho detto no, io sono un sacco di tempo senza vederlo, e vicino al fedale. E poi mi ha detto uno adesso, ma non le parlo qua, dai. Ho capito, speriamo che si rimetta. Speriamo proprio che si rimetta perché è una persona in gamba. Io non credo che è in gamba. Lo so, purtroppo. Avanti già. Sì. Stavo dicendo, lui mi volava, mi ricordo benissimo, con un Midland con le bande laterali a 23 canali, vero Antonio? No, c'aveva un certo verticale grigio, c'aveva, beh, che poi l'aveva dato a uno, gliel'ha ritornato. Gliel'ha prestato, e infatti siamo andato con me, dice, cazzo, gli ha dato paracchino perché quello poveraccio mi ha chiesto poi aveva bisogno, e poi ha preso e non me l'ha più tornato. Sono andato a chiedere e dice non me ne vuole più dare, e infatti ci sono rimasto male io. Hai dato paracchino, non bisogna più prestare a nessuno, ho detto, perché a volte la gente piglia e se li vende. Sì, ma non l'ho prestata a quelli di Usi, mi sembra. No, l'ha prestato a uno qua a Sassari per lavoro. Aveva il 3006 e l'ha prestato appunto come tanto all'ello, non era più restituito. E questo lo utilizzava nel motocarro, lo utilizzava per lavoro. Vabbè, io so tutto, ma non svegliamo niente, avanti. Io perché mi ricordavo di un Midland a 23 canali, che me l'avevi chiesto, mi ha detto, ma tu paracchino di cucciolo c'hai a 23 canali? Io ho detto paracchini a 23, di quelli non ne ho. Poi mi avevi dato uno tu a 23, ne ruota di 91, di quei Midland a 23 con le bande, Antonio, te lo ricordi? Esatto, sì, me lo ricordo. Vabbè, già... La verità gliene volevo dare uno io, ma ti parlo di anni fa che ne avevo parecchi. Stavo regalando uno, poi mi ha detto, ce ne già ci passo, non c'è mai passata a ritirarsi. Quando abitavo in via San Donato, lui passava tutti i giorni con il Vespino. E non l'ho più visto, la verità. Solo gli avevo regalato un baracchino. Allora c'era i baracchini, ne avevo parecchie. Adesso gli avevo dato al limite un ultimo dei tre, un biking, quello che era. Ma tutti regalati li ho, cazzo. Come le facevo niente, ce la faccio a riempirmi la casa di baracchini senza usarle, non me ne faccio niente, capito? Sai come sono fatto io? A me l'unica cosa è, se piglio qualche baracchino, piglio solamente per pizzi e basta. Me la metto dentro una cassetta, se mi serve qualche componente lo prendo, se non mi serve non lo prendo. Però a mettere i baracchini così lampati in casa, senza usarle, no, mi dà fastidio solo a guardarli, la verità. Perché mi dà fastidio. Al limite preferisco regalarli per dire te, entra baracchino, così ci fai compagnia. Stavo dicendo, recupera la KB23 che io ti do il Midland con le bande laterali, quello da base. E va bene, già lo recupero quello. Adesso poi quando andrò a Ussi uno di questi giorni, ci passo e me lo faccio dare perché è mio. E così te lo do e sei a posto, e di tu. Sono contento che lo pigli tu il baracchino. Me lo usi tu. Ti do quello a 40, come 40 canali da base con le bande che ho. Quello che mi ha dato con Stefano. Ok, intanto se da base ne ho tanti, no? Ti do il Midland da stazione base, ti do, con le bande. Ok, io lo riprendi. Ok. Va bene così, facciamo ritirare questi baracchini che è meglio, almeno teniamo sempre l'attività. Se sapessi quanta voglia ne avrei io di ripopolare la frequenza, solo che cosa vuoi. Boh, forse qualcuno penserà che, siccome porto sempre dei vecchi cibi che io conosco, no? Detto, ce l'hai, ma sì, ce l'ho sempre conservato, e beh, perché non rimpiazzi l'antenna, dice, ma non ci penso nemmeno, per carità, tutti la stessa risposta mi danno, ma guarda che non è quello che stai pensando tu, perché ormai non c'è più quel macello di una volta, siamo tutti tranquilli, non ci sono più ragazzini, non ci sono più portanti, insomma, ci stanno, tutti quanti ci comportiamo bene, però non ci sono più, praticamente chissà cosa penseranno anche quando io cerco di convincere, comunque, non me ne frega niente, No, non sto facendo niente di male, c'è uno lì che riprende a modulare. E l'ho detto a forte braccio, e l'ho detto anche a Antonio, aspetta come si chiama, Antonio vai in Navona, che l'ho trovato, mi ha detto sì, ce l'ho sempre, dice, ci manco già più di 10 anni, la frequenza, Antonio venerdì, ti ricordi venerdì, abita qua vicino, a quadrato abita, ciao, mi sembra che riesce dall'antenna, infatti non l'ho più vista. Poi vicino a lui c'era quello che c'era l'acchino, che abitava lì vicino a lui, avevo pensato io la manto, ma non c'è più, evidentemente c'era Pado Dutto, sono impatto. Che non mi ricordo il nome d'attivo come si chiama, di Luna e Sole, là. Non mi viene in mente il nome adesso. Di Luna e Sole, ma non stai parlando di Gianni, aspetta, era Mattone, non sai parlare di quello, ma adesso non mi ricordo come eri. Boh, e dove viene insomma là? Oh, non è quello. Gianni Pinchi. Ah beh, ho capito. Va bene. Ehi, l'ho detto a tante altre persone, l'ho detto lo stesso. Dicevamo, non ci penso nemmeno, e vabbè, non ci pensare, perché noi ci pensiamo e ci siamo. Quando decidi di... L'ho detto anche a Toto, un vecchissimo CB, anzi si voleva comprare un baracchino, e c'era un amico disposto a venderglielo anche. Dice sì, dice me lo faccio, l'ho detto un paio di volte, sì me lo prendo, abita a Montarosello su in alto. E così per passare dice una mezz'ora la sera, ma prenditelo, ma te sai che lo trovo sempre quello, Toto si chiama, non mi ricordo il nome attivo del baracchino qual era, boh, non me lo ricordo, Toto, un tipo con gli occhiali, guarda della mia età, forse anche uno o due anni più grande di me, Antonetto, non ricordi tu? Antonetto, quando è andato a bere un bicchiere di birra mia, io già. Qui a faccia nostra e io ho tantissimi ne conosce, ma quello di Monteoro, Antonio, te lo ricordi, non parla più Antonio di Monteoro, ma non stai parlando di Antonio il animatore per caso, perché Antonio di Monteoro non me ne vengono altre in mente, Vittorio di Monteoro, Vittorio, però quello che mi è arrivato da Monteoro parlava, Antonio l'ho già sentato, ha capito ti sto dicendo, e poi altri, quelli c'erano anche molti, che c'era Corso, anche la Rossa, non ricordo più la Rossa. Sì, a quella Rossa, Luna Rossa, c'era, molti anni poi che c'era Ivan, ma Ivan credo sia morto, Ivan, credo, non sono sicuro, ma... Penso di sì, però quel tipo piccolino che andava in moto sempre, con una moto di quelle moto sciolte, non mi ricordo che moto era, forse era un NV, forse era, non me lo ricordo, che il figlio ce l'aveva anche lui e faceva il lavoro di motocarrista e ci aveva il baracchino nel motocarro, non lo so se te lo ricordi, Ivan. Siciliano era, come no, un MV che aveva abitato a Bancali, lui è. Sì, è lui, non proprio a Bancali, era più a Monteoro che a Bancali, sì, già è lui, ma forse è morto, non sono sicuro comunque, non me lo ricordo, la verità, qualcosa mi avevano detto, ma non me lo ricordo in questo momento, vabbè, ne sono passati tanti in frequenza su questa banda, perciò non ce ne possiamo nemmeno ricordare tutti. Prima c'erano veramente tanti, ma tanti, anche troppi ce n'erano. E adesso ce ne sono troppo pochi. Stasera è venuto un flash, mi sono ricordata, te lo ricordi, a Ciclone che modulava dalla Sinara. Ciclone modulava a Montarosello. Giovanni Ciclone, veniva sempre in bottega, era ricoverato in un istituto di anziani, ricoverato, sempre che c'è, ancora vivo, perché ha oltre 80 anni, avrà un 80, all'incirca 85 anni, avrà oggi, conosco bene anche il genero che è ex poliziotto, insomma, Ciccone, perché fa sempre bottega. E c'è stato un periodo, ma un periodo lungo, almeno 4-5 anni, che passava tutti i giorni, perché lui scendeva lì, la voltava il vetro e si fermava da me. E poi andava e ci faceva il giretto, e si incontrava lì con gli amici di Pietà Italia, con un certo Luna Rossa, si incontrava, non Luna Rossa quello Mario, Luna Rossa, un secondo Luna Rossa, che poi si aveva preso il numerativo di Mario, un uomo grande questo, più grande di me di età, e stavano sempre lì a fare la passeggiata verso Piazza Italia, Piazza Castello, passavano la mattinata con gli insieme, capito? E con altri anche, Raffaele, mi ricordo, Raffaele l'animatore anche, si trovavano tutti insieme e si facevano la passeggiatina. Raffaele non l'ho più tornato a vedere, mi rimane a metà sempre, lo conosco benissimo Raffaele. E stavo dicendo, quello giù, sempre c'è una testa, perché mandiamo la sera, c'era un GP all'epoca, negli anni 70, che ci aveva in via Roma un negozio di animali, mi sembra, ti ricordi chi è? Io se lo ricordo, Cardinale, Cardinale e anche la moglie, parlavano al baracchino, vendevano, avevano il piccolo zoo, avevano là, e vendevano animali, uccellini e tutte queste cose qua. Ok, Gianluigi, sì. Quindi anche loro si sono rilasciati anche una certa età. Ma poi da via Roma tanti anni fa si erano trasferiti ed erano lì in via San Carlo, erano, cioè una traversa che c'è in Corso Vittorio Emanuele, nella parte bassa di Corso Vittorio Emanuele, di fronte a via San Donato, ti dico quella via, perché è una delle vie più nominate a Sassari, più note, di fronte c'era una via che si arrivava in via San Carlo praticamente, all'angolo c'era la bomboniera e c'è ancora la bomboniera, quello che vende confetti e servizi, tutte queste cose per chi si sposa, eccetera. E lui aveva il negozio lì, aveva, però adesso so che non c'è più, da tanto so che non c'è più. E Gesù Abdias, nella comunità noi ci siamo serviti sempre lì, sia per il matrimonio, per il battesimo, i campi li abbiamo comprati sempre lì, mamma si serviva lì. E poi c'era un altro, anche quello io, sempre quando ho i picchi con il di manutenzione, Dino di tutti gli apparati mi aveva lasciato, e tutti i prontuari di transito, cioè, e molte volte c'erano tutti anche qualche nominativo, e c'era anche coso, padre Brown, Costantino, una meta giù. A voi se me lo ricordo, come no? Certo, adesso vedevo sempre, accanto a me, accanto alla mia bottega, c'è un negozio di acquari, no? E dunque vende mangimi, vende per gli uccellini, per i pesciolini, eccetera. E veniva sempre padre Francesco, ma sono almeno 2 mesi, anche di più, che non ti ho visto. Prima passava almeno una volta alla settimana, andavo per fare il rifornimento lì, per comprare il mangime, perché lui ha una voliera, no? È un appassionatissimo di uccellini, eccetera, no? È una voliera a casa, e dunque veniva lì in quel negozio per comprare il mangime per gli uccellini. Però non l'ho più visto, anche perché l'ultima volta mi aveva detto, dice, non ci vengo più qua per il semplice fatto che ho trovato un altro negozio dove spendo di meno. Fatto francese, io non so cosa dirti, io non mi occupo di queste cose qua, di questi mangimi, io non ne compro e non so cosa dirti, cosa costano, cosa non costano. No, dice, no, ho trovato un negozio, dice, in un altro posto, ma avevo detto anche la via dove, ma non mi ricordo dove, dice, costa molto di meno, e allora, siccome è diventata una certa spesa, anche diventata, e allora preferisco comprare la zappata. Fai come vuoi, ma cosa vuoi che dico? Sì, io sono in 30 e sui 33 anni che non lo vedo, da quando frequentava, lo so dove frequentava Francesco, dallo studio di Corso, di Saturno, te lo ricordi a Saturno, sempre lì stava. A voi se me lo ricordo, certo, sapevo anche dove, ma io sono andato anche a casa di Saturno, abitava lì, verso la cupa in fondo, là, bene, cioè i punti, c'è una, poi c'è una, un bivio dove si arriva per la crucca, si va in fondo, in campagna abitava Saturno, ma è morto, Saturno è morto già da parecchi anni, lo so, aveva la Firenze 2 come antenna, aveva. Comunque Padre Francesco l'antenna ce l'ha sempre, l'ho vista anche questa settimana, perché sono passato lì nella sua zona, San Donato e zona limitrofa, insomma, e ho visto che l'antenna ce l'ha sempre piazzata. E anche l'apparecchiatura, gli ho detto tante volte perché non rientri, io lo dice non ho più voglia, e vabbè, se non hai più voglia, pazienza, non ne volete dire. Ok, io con Saturno c'avevo un bel po' di roba anche, ero andato lì dove c'aveva il laboratorio fotografico e hai capito, era ben attrezzato di là, c'aveva fatto un bel pannello. Francesco andava lì sempre, infatti mi ha portato la Sassa in macchina e con mamma ero che era andata a comprare roba da signor Franco, quello del paradiso dei bambini, che si conoscevano una vita con mamma e con papà, quando eravamo anche noi andavano. E è andata come roba mio cugino che era piccolo e niente, io ne ho approfittato, l'ho andato a trovare a Saturno lì, c'era padre Francesco lì, è l'unica volta che avevo conosciuto era quella. Sì, è in pensione da parecchi anni ormai, lui prima faceva l'infermiere, padre Francesco, e Saturno lì aveva lo studio fotografico più giù di Rosa, di Piazza Castello, cosa si chiama? Piazza Castello, sì, o Piazza Azzurri, come quella, Piazza Castello, sì, Piazza Castello, più giù di Rosa, e modulava da lì, solitamente, poi abitava in campagna, abitava, è abbastanza lontano da Sassari, da qui, dai punti, sarà stato almeno un 4 km, 3-4 km, buoni, dove abitavo, era in campagna, ma io mi ricordo benissimo perché ero andato a casa sua, perciò, poi purtroppo si è ammalato ed è morto, pazienza, la vita purtroppo ti riserva anche questo. Ok, Popo Abisese. Certo che ci sogno. Ogni tanto sparisci, ma dove vai quando sparisci? Diccelo. Sono una patata qua in casa. Le donne! Le donne no, l'hai detto quanto sei. Beh vabbè, non te lo dico che sei maniaco, ma non te lo dico perché ci sono le donne. Sto scherzando, Pompugno, ma che è reato. Avanti la donna che è lì a casa di Pompugno. Ricordi di me della voce? Della voce? E che sei? O sei Giovanna o sei Serena? Che è Serena? Che sei? Serena sì, o Giovanna? Giovanna. Ciao Giovanna. Dai un po' niente a tuo fratello. Tu in caso mai che mi mandi conto a me. Va bene, dai. Ciao Giovanna. E allora, ma bene se abiti Giovanna? Ciao sì. Ciao sì, ok. E a prole, come stai? Ah? A prole, come stai? Ah, sono sposata, sì, a posto. Sono a posto, tre figli anche. Appunto, è quello che stavo chiedendo, a prove, quanti figli hai? È quello che ti stavo chiedendo. Tu mi dirai, ma fai tu, insomma, così, con la curiosità. No, perché non sapevo la parola fone, capito cosa significava, che Santonello. Ho capito. Va bene, avanti Gianni, per Giovanna. Sì, perfetto, saluto Giovanna, buonasera, Capri 2 da questa parte che super cordializza e niente, a Torello non me l'avevo mai detto che c'è una sorella. Allora, Gianni, Giovanna, proprio se lo voglio, perché non ti piace un maracchino a casa, così ci fai compagnia qualche volta. Guarda, c'ho già l'antenna, c'ho già il macchino, c'ho tutto, basta solo piazzarlo. E allora cosa fece? Te lo porti a Antonello e te lo fai piazzare a lui, no? E la voglia che le manca a Antonello di fare certe cose, e la voglia che le manca... Scusate l'intromissione, signori, qui sempre Daniele Lamor ricepata, saluti a tutta la ruota e anche a Capri 2 là. Con la speranza che mi ascolta qui sempre in barra mobile, gaba. Oh Daniele, ti ascolta. ascolto, ti ascolto, ogni tanto appaccolio come per magia. Sì, Giuseppe, sta uscendo. Ok, perfetto, perfetto. Quindi ci manca il baracchino, così è piazza di uno un baracchino di quelli che c'è in casa, Antonello. No, c'ho il mio. Ciao Giovanna, Coca-Cola. Leoncino, ciao. Hai, hai Giovanna, Coca-Cola. Brrr, Leoncino. Eia, ciao Giovanna, buonasera. Buonasera. Buonasera Leoncino, sei perso, stamattina ti sei perso. Ti sei perso, capito? Ti ho chiamato e avevi staccato. Certo, sto arrivando. Capa, e ho visto che eri sotto casa il tuo padre, in cambio. Sì, io, no, sono la mia suocera del sogno. Se fra poco la mia, anche mamma invece l'hanno chiamato, lo mandano a funerale, dai. Beh ragazzi, io sto in RX, dai, che sto per arrivare, saluto a tutti e buon proseguo di questa domenica che sta per finire. Daniele Motrice Patta, qui abbraccio a tutti, stretta di paletta, e ci ascoltiamo alle prossimine. Un po', un abbraccio forte forte anche a te, L'abbiamo dovuto piazzare in macchina qua, che sono sempre cambia cambia lo furgone. Alle prossimine, ciao, non riprendo mai, che se no non mi stacco più, ciao. Eia, ciao, ci sentiamo, saluto di bene da parte mia. Gianni, sei un imbambito, ma quando mai ti ricordo che Giovanni modulava la casa mia con l'FT 250, non te lo ricordi? Mamponio? Adesso sei sceso, dimmi Giuseppe. Guarda Valeria, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adesso stai scendo benissimo. Il PL era, il PL. Ti parte che l'hai messo a posto, dai, sono contento. Sto usando anche l'altro alimentatore che mi ha dato Giulio, anche quello sto usando. E stai scendo bene, a bomba stai uscendo. Avanti Giulio, ripigliatela tu. Ok Giuseppe, sta uscendo benissimo, no, non ci sono problemi. Alla grande, 9 più 20, 23, una cosa del genere, così. Va benissimo, oh Giuseppe, di lusso. Sì, no, anche con l'alimentatore, per il baracchino solamente, va bene Giuseppe, non ci sono problemi. No, naturalmente per i legnani, no, perché solamente un 3 ampere, sì, ma per il baracchino va benissimo. No? E poi, come hai fatto? L'hai lasciato così, attaccato come te l'ho dato io? E va bene così, fissato così sull'alimentatore. Non voglio dire che sta uscendo bene, anche tu Pompo, non glielo dire, tanto se no si galvanizza, tutto bello lavato, lui che sta tutto bene, almeno fa qualcosa lì, cazzo. Ditele che sta uscendo su 8, 8 e mezzo, non dire di più, cazzo, se no dice tutto a posto e non lo arrangia mai, capito? Ciao Daniele, già lo sa che sta uscendo bene, non ci sono problemi, già se ne accorge lo stesso, se aveva il piede che non faceva mai contatto. Giuseppe, quando te lo dico io, guarda che c'è qualcosa nell'antenna, nel PL, e lì se l'hai trovato il guasto. Chiappa. Guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, metti la portata in fissa, ti do un segnale giusto quando mi stai arrivando. 9 più 25, giusto, Giuseppe, giusto, va benissimo, non ci sono problemi, ok, bene. Avanti Gianni. Ok, perfetto, sì, adesso arriva bene Giuseppe. Invece da un quarto, piano piano, il difetto, hai capito, e arrivi di nuovo alla grande, arrivi. Ok, proprio non ti ho capito cosa hai detto perché ero giù, dimmi. Ti stavo dicendo che sei suonato, perché Giovanna, quando te la ricordi, da quando parlava con l'FT 250, figurati tu, che usava il barattinone al posto mio quando era piccola. Me ne ricordo, Marcone, cioè, provarsi però, sono passati tanti anni dell'effettino, me ricordo, ma adesso l'effettino non ce l'hai più, ma qual è quel baracchino famoso che avevo visto all'epoca in Mansarda, il baracchino quello è? Quello è, quello che dava 2,20, lì scossa, cazzo. Che non ce l'hai più quello, come? I gelati che avevo dato, figurati. Già oggi non l'avevo volato con l'apparecchio, era poco bello già, ogni scorsa per pigliavo, credo. Ok, gli ha preso. Perfetto, perfetto. Quindi Giuseppe Leoncino ha risolto il problema del baracchino. Vediamo, non tocca più nulla a Giuseppe, no. Vieni avanti che ti riascolto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio, prova. Perfetto, Giuseppe, non toccare più nulla, amici. No, brucia tutto, brucia da rotto. Ok. Giulio, riprendi, ti rimetto il cambio, vai. Ok, sì. Giuseppe, ma l'antenna, cioè il piede, non è saldato, l'hai messo così? No, sì, il piede è saldato. E allora come mai? Allora era la calza che lo faceva la massa. La calza era. Ho capito, sì. Va bene, d'accordo. Giovanna, ci sei ancora? Vieni tu, pum. E sono impegnati in casa adesso, dai. È andato fuori a visita al fratello, dunque sicuramente stanno chiacchierando. Avanti Gianni. Sì, perfetto. No, ma io ho detto da poco fa che c'era qualche contatto nella casa, perché molte volte qui lo fanno giù, però quando lo fa anche la ricezione viene meno, quindi se lo puoi mettere le mani, insomma, niente, capita, e soprattutto magari come si chiama, fatto in fretta, un collegamento fatto in fretta, hai capito? Io adesso gli ho messo il coro, dove c'è i riduttori, gli ho messo un attisolante, che non si muove più, non gira più, però molte volte quelli che hanno il riduttore giù si svitano appena, poi muovi, adesso sono tutti cerottati quelli, io, e vedrai che non lo fa più. Perché il riduttore tu lo devi stringere con la pinza, lo devi stringere, e vedrai che non si muove più. Boh, a me non mi succede questo, non lo so. E pensare che io lo cambio spesso il capo da un apparecchio all'altro, eppure vuole stretto con la pinza, ne prendi due pinze, senza schiacciarlo naturalmente, e il riduttore lo stringi, capito? E lo stringi bene, non si muove più, non ce la fai più a aprire la mano. Uno che ha detto attenzione, chi è che dice attenzione? Oh, ciao Perù, sto parlando con Giulio Dollaro, immagino che non lo ascolti. Che è stato attaccato questa bomba. Giungo, 9:20. Lo ascolti a Pinuccetto lì giù. L'ho sentito solo un attimo, non ho detto, non lo sento, insomma, una frase del genere. Pinuccetto, adesso mi senti? Ho aumentato un pochino, forse la radio l'ho rovinata, però non lo so se mi senti adesso. Bacio bianco, ci sentiamo dopo, là. Va bene, ci sentiamo dopo, là. Avanti, fammi la ponte, Gianni. Hai sentito, Pinu, ti ha chiamato Giulio Dollaro. Metto giù che non ti sente, magari, diciamo, qui ti arrivano a bomba e giù, alla grande, 9:05, stai arrivando, e purtroppo magari non si incanala il segnale per il QTH di Pinuccio. Non ho un coso, un piano di pretende ultimo, perché ci mancano metà dei radiali, e dunque, evidentemente i radiali che mandano il segnale da quella parte non rendono, capito, perché non ci sono, capito, o già. Sarà quello, comunque Pompugno si è assentato. Ok, perfetto, Pinu, cosa si dice lì quel di Buduzò, dimmi tutto. Ok, già si fa sentire. Immagino, diciamo, che come vi dico l'altro giorno sarà pronto l'altro e quindi forse andrà anche meglio. Ok, giù, riprendi, vieni avanti, e mi ha detto Pinu che manco la lancetta muove. E c'è da quando nemmeno lui, non solo non muove la lancetta, ma non capisco, sento che c'è un bipiglio, ma non capisco niente di quello che dice, assolutamente niente, nulla di nulla, veramente. Perciò, lontani siamo, non è così, no, non è così semplice, saranno 80 chilometri da dove sono io, anche di più, non è così facile sentirsi, Solo in banda laterale forse ci sentiamo, perché una notte ci siamo sentiti in banda laterale, quando lui stava modulando con Gianni di Icchi, allora il giorno ci siamo sentiti, in banda laterale però eravamo. Sì, è molto probabile, in FM sicuramente arrivi, vero? In FM lo sentino a Giulio. Peggio che Pierucetto, mi ascolti Pierucetto? Yeah, just raccomando, hai preparato il caffè? Ciao! Ciao Maria, ciao Frank. Buonasera. Mi raccomando, il caffè che sia caldo, eh. Scusa, io non ho risposto. Ehi, Giovanni, adesso prepariamo caffè. Ciao, ciao. Ehi, buon proseguimento, dai. Stavo spazzolando io, senti. Buon proseguimento a tutti e due, dai. Maria. E il temore ci spinge a noi. Beh, tutto bene? Quello che è bene, quello male è male, e cosa devi fare? Per adesso sembra che stanno bene, e beh, Giuseppe. Guarda la radio com'è, buona. Va bene Giuseppe, va benissimo. No, stavo provando quel baracchino che devo piazzare in barca e vedere come stavo uscendo, hai capito? Un baracchino che mi ha dato mio fratello, mi ha regalato mio fratello, e stavo provando a vedere come stavo uscendo. Va bene, va benissimo Giuseppe. Poco fa però a momenti il segnale si calava, io vi stavo ascoltando, ma non potevo entrare, che c'era gente qua, ma vi stavo ascoltando. A momenti sì, il segnale saliva, a momenti si diminuiva, capito? Dopo. Infatti, strano però, eh. Ma vedono, ce n'è adesso. È un macello, eh. E che tocca di portarla giù per saldarla. E io okay. E come sto uscendo, Giuseppe? Okay. Ero su un nuovo perché erano spagnoli, focanti. Ma non si sentito, la premavo un paio di volte, dopo non l'ho sentito più. Arrivavano fortissimi loro, Cappa, e arrivavano un bel furti, quasi 9.40. Faccio, chissà quanto le stavano usando quelli lì. Cappa, giustamente loro, per farsi sentire, usano anche 1000 watt. Noi ci risogniamo, i watt. Oia, per carità. Oia, ioi. E vabbè. Vediamo un po'. Piazzato gli avevi a quella di cottura a Monteoro e quell'apparecchio. Ma non sta uscendo. Devo vedere la prossima settimana, vediamo un po' cosa intendono di fare, se no me lo riprendo. Deve si riprendere, se le do un omologato, Giuseppe. Va bene. Allora, cosa ci racconti di bella? Siamo almeno a partire da un po'. Capito. Bisogna andare Giuseppe, bisogna mettere facce, se no voglia casino, che si ferme per tutto. Cappa. Poco fa c'era gente, adesso che sono entrato io non c'è nessuno. Ci dovrebbe essere Giulio, ma non so se ha fatto quel sì. Vediamo un po' qua. Attento Giulio, ma più cosa se ci sei avanti. No, se ci fossi sarebbe entrato subito, Papà. C'è una cosa, Gio Mari, ma tu ancora quel microfono dell'MP5? Uno ne aveva volato a Franco di sorso. Uno a lui e l'altro io ce l'ho ancora. E quanto ne vuoi per quel microfono, Gio Mari? Perfetto, 40, è nuovo, è preciso a quello che ho dato a Franco. Preciso, nuovo, Giuseppe. Oh, ti sento, però non è risolto il segnale tuo, capito? È di meno il segnale. sei 9.20 qua, dovresti arrivare a 9.40 qua, Giuseppe. Sono il re e non mi posso dimenticare facilmente. Un litro faccio un litro e mezzo d'acqua e 800 grammi di zucchero. Senti, a me non mi... allora ho fatto una prova, no? Come l'ho torchiato, però ho messo 500 di zucchero e un litro e mezzo d'acqua ed esce, sembra troppo leggero. Come? Aspetta un attimo. Non è leggero, no, non è leggero perché... ma un litro e un litro e mezzo d'acqua è la dose giusta, capito? È giustissima. Ci ho messo poco zucchero. Che dicono nel vino che la zuccherina dà i gradi, così sarà, bro. Ma forse era anche la corposità, capito? Non lo so, però il mio figlio è già fatto buono, proviamo. Ti dico, sai, io quanti giorni lo lascio, io, ripeto, io lo faccio sempre così, è abbastanza forte ed è giusto, giusto, giusto, la operazione per me non l'ho mai misurata, tu c'hai il coso per misurarla, io non l'ho mai misurata e no, a me mi va bene, io faccio sempre così, mi va benissimo perché mi piace, lo bevo bene tranquillamente. Certo, di Roger, fa bene lo zucchero, fa bene, quindi adesso l'ho riportato a 100, così lo regalo anche a qualcun altro che diventa più dolce. Frittella, ocla. Anche Eugenio se ne è accorto, c'è un odore di frittelle, ma è vero. Infatti poi sono uscito, ho sentito l'odore, gli ho detto, ma è un odore di frittelle. E mi hanno dato un piatto. Vediamo, c'è qualcuno a cui piacciono lo stesso le frittelle? Ti piace la frittella? Ti può colorito puro. Vedi che non è... ti stai confondendo adesso, non stai sentendo quello che stai dicendo. Tutte le porto a mia moglie, se no alla fine che me le mangio tutte, un attimino di fianco faccio le porto, solo a mia moglie. Oh, a tu? Sì, capa, dimmi. Cosa sono? 145, dimmi la frequenza, adesso, in questo momento. Il monitor. Ricordamela, che non mi ricordo la memoria. 525. 145, 525, così. Capa, sono per gli essere più volelle. Vabbè, l'antenna perché ci do bassi bassi, quel cazzo di multimanda non sente niente, per dire chi sta parlando, ah no vabbè stanno usando il ponte adesso, così è. Un attimo, non c'è ponte, a 5.25, è diretta. Cacchio pure mi stanno arrivando bassi bassi, lo sai, per dire, quella persona che sta parlando adesso è vicino a me, la sento bassa bassa, quel cazzo di antenna su questo tipo di manda non serve a niente, su altre bande va bene, ma sulle V non serve a niente. Sì, ma è possibile che sia in direttiva, capito? Quindi ti sta saltando. Certo. Aspetta, glielo chiediamo. In direttiva, sì. Siamo attaccati, Antupe. Ma la tua, vedere. Ti risponde, sei in direttiva o non sei in direttiva, là. Adesso 145, 525, vuol dire? Cappa, confermo. Ma la tua, vedere. Sono dall'altra parte adesso, Adesso sono dall'altra parte, comunque faccio un'entrata adesso. Un attimo, ma cazzo c'è un segnale a 9, però non riesco a sentire nessuno, ma questo è portante. Tra l'altro sono in coso, sono in portatile io. Ma vai, tu. Sono un bel pazzo di coso, di radio però. Ma tu hai parlato? Proviamo. Chi è rimasto su 5? Attento 5, chi è rimasto? Io ma sono un attimo dall'altra parte. Via. Dopo mi fai un controllo di radio, di due radio mi fai altro quando sei libero. Sei avanti? Sei avanti? Oh, il Gigi Vulcano. Via, ma si veglia. Via. È positivo, là. E niente, ce l'ho staccato adesso, mannaggia. Sono salito, non sono adesso io, là. O c'è l'altro, comunque l'altro attaccato, là. C'è l'altro e poi lo proviamo lo stesso. Io, no, io la Emiliano, fai sul 45, che sono andato sul 45.